nato il re dell'amor. Nella grotta c'è vivo stupor. Per questo piccolo agnel che negli occhi ha l'azzurro del ciel. Non hanno oro da offrir i pastori che giungono qua, ma si inchinano davanti a chi di ogni uomo pastore sarà. Signor, è sbocciato il più candido fior, si è accesa lassù una stella che brilla nel blu e guida lungo la via i re magi venuti dall'est per rendere omaggio a Maria e a suo figlio il più grande dei re. Dormi bambino del cielo, tutto il mondo ora parla di te. Piccolo fiocco di neve caduto a Betlemme. Dormi e riposa Gesù, l'uomo il cielo non guarderà più, perché la stella più bella ora brilla qua giù. Trascorsi d'allora per noi, al suo messaggio d'amor lo portiamo ancora nel cuore. Quella frase ama il prossimo tuo come più di te stesso, chissà, forse è proprio l'impronta di Dio sul cammino dell'umanità. Perciò apriamo il cuore all'amor e Natale davvero sarà.